Due brevi brani da La gente non sa cosa si perde. 27. È tantissimo che, come aveva ragione. Come ha ragione. È giusto questo che dice detto, il detto del poeta, il dettato, lui lo dice. È giusto. Che memorabile che è. È detto, anche solo scritto. Si sente che ha ragione. Ne puzza tutto della ragione, da vendere. Una nausea. 24. A differenza della legge che è stata approvata, noi abbiamo diverse differenze. Queste differenze non sono state trovate da nessuna legge. E questo porta in campo una differenza sostanziale, soprattutto rispetto alle leggi.